il volume di Katia Occhi. Questo incipit potrebbe forse sembrarvi un po' di circostanza, ma in realtà non è così e cercherò subito di spiegarvi il perché. Capita a volte, ed è successo anche a me, devo dire, che la presentazione di un volume diventi, per chi è chiamato ad effettuarla, un compito impegnativo, se non addirittura imbarazzante. Libri non particolarmente brillanti per scrittura, poco curati nel contenuto o anche solo noiosi e poco interessanti, costringono chi deve presentare il volume a fare qualche acrobazia dialettica, costretto com'è comunque dalla formalità del momento, per evitare le debolezze dell'opera in questione. Con il libro che presentiamo stasera questo rischio non c'è, dunque ringrazio la Gian Veduta e la Biblioteca Claudio Augusta per avermi invitato a questo suo ciclo di presentazione di volumi che, mi piace dirlo, ritengo sia un buon esempio di ciò che un'istituzione pubblica attiva in campo culturale dovrebbe fare e come i frequentatori di questa sala sanno, l'attività di questa biblioteca è continua e costante da questo punto di vista. Vi dicevo che il rischio di doversi inventare qualche merito da sottolineare per il volume non c'è, in primo luogo perché il titolo Boschi e mercanti, traffici di legname tra la Contea del Tirolo e la Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII, pur efficace per carità, in realtà non rende però pienamente giustizia, almeno dal mio punto di vista, al contenuto del lavoro, che è assai ricco, vario e ricco di spunti stimolanti. In secondo luogo, perché ci troviamo di fronte ad un contributo che è sì solidamente scientifico, quindi molto curato dal punto di vista metodologico, ma allo stesso tempo è privo di quelle pesantezze stilistiche, di quei bizantinismi argomentativi che, ahimè, troppo spesso caratterizzano la storiografia, anche locale, contribuendo a renderla fortemente specialistica e indigesta ad un pubblico più vasto. In questo senso, magari pensando a quali siano le ragioni che decretano nel mercato editoriale il successo di un libro, una delle ragioni che può venire in mente è quella della possibilità di leggere un lavoro su più piani e per diversi fruitori di trovarvi motivi di interesse. Se pensiamo ai grandi bestseller degli ultimi 20 anni, uno tra questi per esempio è Il nome della rosa, di Umberto Eco, una delle caratteristiche di un volume come questo è proprio la possibilità di poterlo leggere su più piani. Il nome della rosa, anche uno che lo legge solo perché vi trova una vicenda di tipo giallo, poliziesco, interessante, può trovarvi una buona soddisfazione, ma anche chi è interessato alla ricostruzione della vita monastica medievale trova degli spunti interessanti. E a un altro livello ancora sono interessanti anche le notazioni di tipo filosofico e teologico che sono contenuti in questo volume. In breve, insomma, si trattava nel caso del Nome della Rosa, di un libro multistrato che era in grado di coinvolgere e interessare anche in momenti diversi un pubblico assai vasto. Ora, adesso non voglio essere irriverente o forzato nel paragone Caracchiara, ma Caracatia, ma anche il suo libro si presta nel suo ambito ad una lettura su più livelli, ricco com'è di temi, questioni e anche registri diversi nel trattare i vari argomenti che vengono esposti. Lo storico, che sia amatoriale o professionista, che è puntiglioso e magari un po' maniacale, potrà apprezzare ad esempio l'ampio e diversificato uso delle fonti che viene fatto nel volume e l'utilizzo di una letteratura aggiornata, mentre altri lettori invece potranno rintracciare una descrizione articolata e a volte, occorre dirlo, anche sorprendente, di aspetti significativi del mondo alpino tradizionale e di quello trentino, tirolese e veneto in particolare. E proprio da qui voglio partire, ossia dal fatto che questo libro si inserisce in una tendenza ormai consolidata nella letteratura storiografica delle Alpi, che negli ultimi 20 anni ha mirato a sfatare il mito, pur sempre duro a morire, di un mondo alpino chiuso, arretrato e autarchico, un mito che magari ha a che fare con l'idealizzazione tardo-romantica che vedeva nelle realtà di montagna il rifugio delle tradizioni, di un ambiente intatto e dell'autenticità dei bei tempi andati. Un inganno su cui, occorre dirlo, continua a ricamare ancora oggi una parte abbastanza consistente dell'industria turistica. In realtà, a ben vedere, e oggi abbiamo numerose testimonianze a riguardo, le Alpi non hanno mai costituito nel loro insieme uno spazio chiuso e statico. E mi sembra efficace a proposito citare quanto scrivono Ludwig e Vergani, ed è una citazione questa, due studiosi, ed è una citazione che traggo da pagina 84 del libro di Katia Occhi, che dicono: la catena alpina, ben lungi dall'essere un fattore di divisione, ha costituito nei secoli una regione di incontri e di scambi, percorsa in ogni senso da uomini e lingue, saperi e tecniche afferenti ad aree diverse. E andando ad indagare il mondo alpino di antico regime, vediamo infatti come la mobilità di merci, di persone e di capitali fosse in molte realtà una parte integrante della vita quotidiana, molto di più di quanto noi oggi possiamo immaginarci. Prodotti tipicamente alpini, come quelli estrattivi, tipico il sale o i metalli, prodotti caseari, i manufatti metallici, alcuni molto famosi, come ad esempio i falcetti della Stiria, oppure i tessuti di Loden, o ancora naturalmente il protagonista del nostro volume, il legname, si alternavano a flussi importanti invece di importazioni, in cui un ruolo fondamentale ce l'avevano i cereali, cereali che invece scarseggiavano nell'economia agricola delle aree alpine. Ma non erano solo le merci che si muovevano attraverso le Alpi, c'erano anche importanti flussi di mobilità di persone. C'era un'emigrazione specializzata per vallata che dalle Alpi andava a offrire servizi in pianura. C'era un'immigrazione specializzata anche tra zone diverse della montagna. C'era anche una mobilità imprenditoriale di imprenditori che venivano dal di fuori delle Alpi nelle Alpi per esercitare le loro attività. E un caso assai famoso da questo punto di vista è quello dei Fugger, che in seguito a prestiti concessi alla Camera Tirolese gestiscono per un periodo l'estrazione mineraria in Tirolo. E non da ultimo bisogna pensare ai massicci flussi di merci che attraversavano le Alpi collegando due tra le aree economicamente più dinamiche dell'antico regime europeo, che erano l'area meridionale tedesca, delle grandi città mercantili da Augusta, Norimberga, Francoforte, e l'area mediterranea e l'emporio veneziano. Tutt'altro dunque che un mondo chiuso, dove anzi i confini erano permeabili e la circolazione di informazioni, di persone e di merci niente affatto secondaria. Sono importanti i contributi che ci sono venuti da questo punto di vista, vi dicevo, dalla letteratura sulla montagna degli ultimi 20 anni. Mi piace qui ricordare i nomi di Pierpaolo Viazio, di Laurent Fontaine, di Jean Mathieu, e anche per amor di patria del lavoro continuativo fatto dal seminario per la storia dell'imprenditorialità e del lavoro in area alpina in età moderna e contemporanea, con sede presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Trento, che ormai da una quindicina d'anni circa promuove incontri tra studiosi dell'economia di montagna provenienti da diversi paesi dell'arco alpino, cui è fatto seguito una serie di volumi, magari qualcuno dei quali avremo possibilità di presentare, direttrice, forse in uno dei prossimi incontri. Nel libro di Katia Occhi, questa idea di mondo alpino aperto all'interscambio con la pianura e con pianura con cui stringe legami e crea interdipendenze torna a più livelli. E torna attraverso la prima donna, soprattutto del volume, che è uno dei prodotti più importanti dell'economia tradizionale alpina, tradizionale e non tradizionale, ossia il legno. Per quanto possa apparire probabilmente scontato a molti di voi, vale forse la pena richiamare la centralità del legno nell'economia tradizionale, sia come materia prima dai molteplici impieghi, dalle costruzioni agli attrezzi, ai mezzi di trasporto, al mobilio, eccetera, che come combustibile. L'organizzazione spaziale dell'economia in generale, spinta in primo luogo dai processi di crescita demografica che hanno avuto luogo, aveva nel tempo imposto una specializzazione dell'uso del territorio che aveva ridotto fortemente le aree boschive che erano presenti in pianura per lasciare lo spazio alle coltivazioni agricole. La pianura è dunque costretta ad importare il legname dalle zone dove viene prodotto in abbondanza, ossia proprio dalle zone di montagna. Riferendosi all'ambito geografico preso in esame dal libro, appare chiaro quanto forte potesse essere la domanda di legname dei mercati di sbocco per la produzione alpina orientale, con le diverse città della pianura padano-veneta coinvolte in questo traffico e con Venezia in testa. Per noi è soprattutto il Veneto che conta come mercato di sbocco, perché qui la geografia dei mercati è disegnata sostanzialmente dal corso dei fiumi, che costituivano la via primaria e principale di trasporto del legname. E nella nostra regione, in sostanza, solo il bacino del Chiese e quello del Sarca, attraverso il Garda, in qualche modo consentono un deflusso del legname verso la Lombardia, mentre il corso degli altri fiumi porta in qualche modo inevitabilmente verso la zona veneta e verso est. In quest'area le tipologie di consumo immaginabili per il legname sono vastissime. Possiamo riassumere per semplicità e anche per riprendere le due grandi partizioni che vengono presentate nel libro, il legname da opera e quello da usare come combustibile. L'enorme rilevanza della prima categoria, quella del legname da opera, è in qualche modo intuitiva. L'area padano-veneta è caratterizzata da una fitta rete di città e di borghi che necessitavano di grandi quantità di legname per le proprie costruzioni urbane e rurali, ma anche per le infrastrutture, dai ponti ai moli e via di questo passo. Vi è poi la domanda specialissima di quello che costituisce uno straordinario esempio di grande impresa organizzata in antico regime, che è l'arsenale veneziano, che è il cantiere navale della Serenissima, il cuore strategico in qualche modo della sua potenza marittima, tanto militare quanto commerciale, dunque un fattore primario per spiegare la parabola e il successo della storia di Venezia. Ma, e questa è un'acquisizione interessante che compare nel volume, il legname arrivava a Venezia non solo per essere consumato in luogo, ma anche per essere imbarcato ed essere venduto in quantità tutt'altro che irrilevante in diverse aree del bacino mediterraneo. E questo è un filone di ricerca, secondo me, che meriterebbe ulteriori approfondimenti, perché rappresenta senz'altro un aspetto curioso e interessante. Se l'importanza del legname da opera, con tutte le sue varie e codificate pezzature mercantili, risulta chiara, non bisogna però dimenticare un'altra funzione che era, non dico altrettanto rilevante, però senz'altro comparabile. La legna costituiva infatti in antico regime pressoché l'unica fonte disponibile di combustibile, almeno nelle nostre aree. E combustibile significava non soltanto la fonte primaria di calore per gli usi domestici, da quelli di cucina al riscaldamento, ma anche un input fondamentale per tantissime attività manifatturiere, da quelle metallurgiche a quelle vetrarie. Insomma, prima dell'affermazione del carbon fossile, che costituisce in qualche modo un elemento simbolico della rivoluzione industriale che non a caso coincide con una marginalizzazione delle aree di montagna che erano prive di questa materia prima, è la disponibilità di legname in antico regime che segna la possibilità stessa di dar luogo a moltissime attività manifatturiere. A questo punto forse qualcuno di voi potrebbe anche aspettarsi che un storico economico parli di cifre, e non voglio deludervi, anche se prometto che sarò breve. Due aspetti voglio sottolineare qui che emergono dal lavoro di Katia Occhi. Sono aspetti piuttosto delicati, la stessa autrice lo premette, che le fonti quantitative sono fonti che già per l'epoca, per chi studia l'epoca e il trattamento delle cifre in antico regime era un trattamento molto diverso da quello a cui siamo abituati oggi. Per cui quando si parla di fonti quantitative bisogna sempre essere molto, molto cauti. Però queste fonti consentono comunque di fare qualche considerazione. La prima è sul dimensionamento di questo traffico. Una domanda, insomma, che viene spontanea nel leggere il volume, è chiedersi ma quanto, quant'era questo legname che veniva trasportato dal Tirolo verso Venezia. Ecco, parlando solo di quella che è l'area centrale su cui focalizza la sua attenzione l'autrice, cioè che è la zona del Primiero, abbiamo per i primi anni del Seicento una quantificazione del valore del legname che annualmente veniva spostato dal Primiero sul mercato veneziano di circa 2.500.000 ducati veneziani. Adesso per voi questa cifra potrà non dire molto, però se si pensa che è pressoché equivalente al totale delle entrate del bilancio pubblico della Serenissima, si capisce abbastanza intuitivamente quale fosse il valore importante di questo traffico. Restando ai valori monetari, un'altra questione interessante è quella connessa al prezzo e alle oscillazioni che il prezzo ha avuto nell'ambito del mercato del legname. Anche qui le fonti sono piuttosto avare, però l'autrice ha rintracciato una serie importante, che è quella dei prezzi del legname fatti a Livinallongo tra il 1587 e il 1638. Qui abbiamo una serie continuativa di prezzi che ci consente di fare qualche ragionamento. Questi prezzi variano da 1,54 fiorini a taglia, la taglia era una misura del legname a inizio periodo, a 4 fiorini 50 anni dopo, quindi con un aumento che è oltre 160%, un aumento che si concentra soprattutto a partire dalla fine del secondo decennio del Seicento. Abbiamo quindi una inflazione nel prezzo del legname in questo periodo. Se qualche oscillazione, senz'altro legata anche alle turbulenze monetarie che in questo periodo interessano l'area alpina e quella germanica in particolare, un altro fattore che incide sul prezzo del legname è senz'altro la crescita demografica che ha avuto luogo in questo periodo e la dinamica favorevole dell'economia nel suo complesso, che incide naturalmente accrescendo la domanda del legname, e quando si accresce la domanda naturalmente sale anche il prezzo. Si può notare poi in questa serie, ed è interessante, come gli anni della peste, cioè i primi anni 30, la peste raccontata al Manzoni che colpisce tutta l'area settentrionale, dell'Italia settentrionale, coincidono con una temporanea diminuzione del prezzo però che alla fine del decennio 30 risale subito per giungere ai suoi massimi. E un'altra questione che qui metto solo tra parentesi è che questa dinamica del prezzo sembra incidere anche su un fenomeno che emerge a partire dagli anni 20 e 30 del Seicento, cioè la crescente presenza del patriziato veneziano nelle imprese di commercializzazione del legname. Patriziato veneziano che prima si occupava di tutt'altro, in questo periodo, anche per ragioni che non hanno a che fare strettamente col mercato del legname, lo troviamo presente in misura sempre più consistente anche in questo mercato, dove l'ascesa dei prezzi probabilmente fa intravedere anche occasioni di profitto non indifferenti. Voglio però adesso uscire un po' dai tecnicismi per parlarvi di quella che costituisce, a mio modo di vedere, forse la parte più importante, che parla dei protagonisti della lavorazione e del commercio del legname. Il rigato mondo di professionalità che operano nel settore ci restituisce da questo punto di vista un quadro assai vivace e ricco di implicazioni. La filiera di produzione del legname è complessa e le figure professionali che troviamo in questo contesto sono diverse. Si parte dai boschieri che si occupano del taglio del legname e del primo trasporto verso i punti di raccolta, magari utilizzando le risine, che sono questi canali lungo i quali vengono fatti scorrere i tronchi e le cui tracce sono visibili ancora oggi in alcune zone di antico sfruttamento forestale. Poi entrano in scena gli stuari. Chi sono gli stuari? Sono coloro che costruivano e gestivano gli sbarramenti dei torrenti alpini che, una volta aperti, consentivano di fluitare il legname verso i principali corsi d'acqua, che per la nostra ricerca sono il Brenta, il Piave e l'Adige. Qui entrano in campo gli zattieri, che pensano a costruire grandi zattere di legname e a condurle lungo il fiume verso i mercati di destinazione, che sono essenzialmente Padova, Verona, Venezia. La presenza degli zattieri è ben documentata anche lungo il nostro Adige, dove a partire da Bronzolo e in diverse aree di raccolta si assemblavano i tronchi che venivano trasportati dai boschi ai piedi dell'Atemar, approfittandone anche, tra l'altro, per usare queste zattere come mezzo di trasporto delle merci che venivano scambiate sulle fiere di Bolzano in grande quantità e che su queste zattere di tronchi arrivavano verso i mercati veneti. Quindi si arrivava sul porto, si scaricavano le merci, si smontava la zattera, si vendeva il legname e il giro ricominciava. A monte di tutta questa gamma di professionalità, però, c'è colui che organizzava l'attività, raccoglieva i capitali, gestiva il rischio di impresa, c'è l'imprenditore. Questa figura è così importante per capire le dinamiche che hanno portato alla formazione dell'economia capitalistica come oggi noi la conosciamo. Molto spesso oggi noi parliamo di economia, parliamo di domanda, di offerta, di globalizzazione, parliamo di grandezze un po' astratte e perdiamo un po' forse l'idea che dietro a questi movimenti c'è l'impegno di singoli personaggi e capire qual è il ruolo dei singoli individui nelle attività economiche ci aiuta anche a dare una dimensione più concreta allo studio di questi argomenti. Anche perché fare l'imprenditore in questo campo non era di certo un mestiere facile. Occorreva lavorare con investimenti molto cospicui e su tempi lunghi, perché i tempi di ricrescita e di sfruttamento di un bosco sono tempi lunghi. Occorreva gestire rapporti non sempre facili con le comunità locali che erano titolari dei diritti sui boschi e qui si interveniva magari cercando di ingraziarsi le comunità con aiuti, regali, prestiti e servizi di vario genere. Occorreva tenere le relazioni con le autorità pubbliche preposte al controllo forestale, in particolare i funzionari asburgici nel nostro caso, o ancora con i signori feudali. Le storie di imprenditori che ci racconta Katia Occhi, in particolare quella dei Someda da un lato e dei Carrara Niederhaus, sono piene di riferimenti interessanti e ci raccontano di complesse strategie di ascesa sociale, in cui sono importanti le reti familiari e le politiche matrimoniali. A questo aspetto delle politiche matrimoniali è un aspetto particolarmente intrigante dal mio punto di vista, e ci raccontano anche di una cura che viene utilizzata nel mantenere saldi rapporti con le autorità pubbliche, prestando servizi, concedendo prestiti più o meno leciti per garantirsi il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. E sullo sfondo di queste attività imprenditoriale c'è anche un fenomeno che è piuttosto tipico delle storie degli imprenditori di questo periodo, cioè il mirare come obiettivo ultimo della propria scalata sociale alla nobilitazione, cioè al raggiungimento del titolo nobiliare, di quello che viene visto come lo status del successo sulla scala sociale. E qui ricade la vivida descrizione dello scontro tra i Someda, una sorta di parvenu arricchitisi appunto in maniera consistente grazie al commercio del legname, che avevano consolidato il proprio status con un'attenta politica matrimoniale, andando ad accasarsi con i Castelbarco e con i Trapp. E lo scontro, dicevo, tra i Someda e la vecchia nobiltà feudale del Primiero, che era rappresentata dai Welsperg e che probabilmente vedeva nell'ascesa di questi terribili concorrenti anche il segno di un mondo che cominciava gradualmente ma inesorabilmente a cambiare. Il contrasto cresce al punto che le due parti mettono in scena una sorta di piccola guerra, non particolarmente cruenta ma piuttosto scenografica, con tanto di bande di bravi armati da archibugi che ricordano un po' i bravi manzoniani, a soldati dalle diverse famiglie, perfino tre colpi di cannone sparati dai Welsperg in direzione della dimora dei Someda, che per fortuna finiscono in un prato vicino e quindi non arrecano particolari danni. L'episodio, che è interessante e anche piacevole da leggere nella ricostruzione che ci offre l'autrice, si presterebbe per introdurre un ragionamento sugli aspetti politici che emergono dal libro, sul tentativo del governo tirolese di estendere il proprio controllo sui vari aspetti dell'economia anche per rimpinguare le finanze che erano del Tirolo, che in quel periodo erano particolarmente esposte, oppure ancora sulla lunga diatriba tra Venezia e Innsbruck per il controllo dei confini, sul fatto poi che questi confini in realtà fossero assai permeabili a traffici, contrabbandi, capitali, lavoratori, imprenditori che si muovevano da sud a nord, dalla montagna alla pianura e viceversa, dando luogo a un panorama molto vivace e movimentato, panorama i cui aspetti vengono toccati in vario modo dal volume. Mi rendo conto a questo punto di aver parlato già troppo e di avervi portato via troppo tempo. Consentitemi ancora un'ultima notazione finale. Il lavoro di Katia Occhi si basa sostanzialmente su due grandi fonti. Da un lato quelle pubbliche tirolesi conservate presso il Tiroler Landesarchiv di Innsbruck e dall'altro quelle notarili conservate soprattutto negli archivi veneti. L'intreccio tra fonti documenti, quindi prodotte da soggetti diversi e differenti per lingua, anche questa è un'abilità tecnica che si riconosce all'autrice perché la lettura di queste documentazioni non è facile, chiunque abbia lavorato sulla documentazione conservata a Innsbruck o anche sugli archivi notarili sa che insomma sono pezzi duri, sono ossi duri. E oltre a questo l'utilizzo anche di una letteratura tanto italiana quanto tedesca aggiornata costituiscono elementi di distinzione per il lavoro che vengono molto apprezzati da chi è del mestiere. Ed è rilevante alla fine l'idea di confine che emerge da questo libro, un confine, come dicevo, mobile e aperto e ben diverso e ben lontano anche da una certa idea di spazi culturali e politici ben delimitati da difendere coi denti che ancora oggi ci sentiamo propinata da più parti. Un libro che vale dunque la pena di leggere anche per un pregio piuttosto raro nei lavori scientifici che è dato dalla sua brevità, quindi lo consiglio vivamente. Grazie. Brevissimamente, buonasera a tutti. Io credo che queste siano pubblicazioni che servono a tutti noi, perché sono le pubblicazioni che ci consentono di recuperare delle radici comuni che molti in questa terra non sanno di avere. Tra l'altro io sono venuto perché era un'occasione per venire a trovare degli amici qui alla biblioteca provinciale, ma soprattutto perché questa è una materia assolutamente incline al mio pensiero. Io ho studiato per l'appunto scienze forestali, sono un alberologo, come si dice, e tra le altre cose stiamo recuperando come Comune di Bolzano una serie di tradizioni insieme all'associazione Porto Fluviale di Bronzolo. Vorremmo riprendere un po' con degli esempi anche la tradizione degli zattelli che scendevano dal Rio Valsura e venivano accompagnando i tronchi fino al punto di partenza che era poi sostanzialmente Ponte Adige, perché da lì poi andava giù il trasporto commerciale fino a Borgo Sacco, che era l'altro punto di raccolta. E questi sono elementi storici importanti per noi, elementi storici importanti. Sono curioso di leggere il libro perché tra l'altro noi abbiamo una forte presenza veneta in questa città, e questa presenza veneta però era stata anticipata nei secoli scorsi per l'appunto dai commercianti di legnami. C'erano grandi famiglie del Veneto, del Padovano, del Polesine e del Veneziano che avevano piazzato qui i loro avamposti proprio perché in questo modo controllavano meglio le loro attività commerciali. E quindi vedete Bolzano come punto di confronto, punto di scambio non solo commerciale ma anche linguistico, ma anche culturale tra le popolazioni al di qua e al di là delle Alpi. Grazie a Katia Occhi per averci dato questa opportunità. Tolgo subito il disturbo anche perché ho un altro impegno e lascio a Hans Heiss, che è lo storico vero, di fare le considerazioni del caso. Grazie, scusate. No, ringraziamo il nostro sindaco, non posso dire poiché io sono di Bressanone. Comunque ringraziamo molto Gigi Spagnoli per essere intervenuto, poiché è proprio una persona anche che di boschi se ne intende veramente, anche se adesso è finito un po' nella giungla politica, dunque ha cambiato un po', diciamo, la sua sfera d'azione. Alle tue riflessioni, ma soprattutto a quelle di Andrea Bonoldi, posso solo aggiungere qualche breve integrazione che forse può essere utile a comprendere questo libro, che è di tutto rispetto e che è proprio un direi anche un capolavoro in un certo senso, e cerco di inquadrare un po' diversamente da Andrea Bonoldi, diciamo, la tematica del bosco, che è fondamentale per la storia europea, poiché riguarda un intreccio di aspetti importanti, sono elementi del potere territoriale, dell'assetto economico di cui abbiamo sentito, dell'organizzazione sociale e, come no, del patrimonio ecologico di un territorio. Politicamente il bosco, fin dal Medioevo, è un dominium principis, una prerogativa del re, e i sovrani fin dal primo Medioevo ne detengono il possesso, concedendo l'utilizzo del bosco solo dopo determinate pratiche. Per quanto riguarda per esempio la nostra terra, basta ricordare che il Principato di Bressanone, di Sabiona Bressanone, prese proprio le sue origini dal regalo della Forestis Lusine, del bosco di Luson, che l'imperatore donò al vescovo nel 893, dunque molto tempo fa. I boschi sono e rimangono una fonte di vita, innanzitutto indispensabile per l'agricoltura. Nel Medioevo i boschi non si limitarono a essere mero luogo di estrazione del legname, ma erano soprattutto anche un luogo centrale per il pascolo del bestiame. Attualmente, come sappiamo, il valore del bosco è un po' ridotto, il prezzo del legno è calato a un minimo storico, anche se consideriamo che negli ultimi mesi ormai si sta un po' riprendendo questo prezzo. Al centro del bosco stava naturalmente la sua produzione del legno, essenziale, come abbiamo sentito, per l'economia locale. Il legno serviva per le costruzioni, per l'arredamento delle case, per i vari attrezzi, ed era una fonte di energia, come ha spiegato bene Andrea Bonoldi, per luce e riscaldamento. Oltre all'economia locale, il legno era di importanza vitale per la crescita e l'espansione dell'intera economia, determinante per la sua capacità di creare sistema. Tutte le grandi città necessitavano urgentemente del rifornimento di legno, che rivestiva un'importanza analoga, se non maggiore, a quella che attualmente spetta al petrolio. Il legno era materia prima per la costruzione di case e palazzi, fonte di riscaldamento e di energie per i variegati settori dell'artigianato, ed infine strumento efficace per l'espansione in oltremare. Tutte le navi fino all'Ottocento erano costruite in legno. In termini ecologici, i boschi rivestono una funzione centrale contro l'erosione e il dissodamento dei terreni, in particolar modo nei territori montuosi delle Alpi, e per lo sviluppo climatico a livello globale, continentale, ma anche in un'ottica regionale. La scomparsa di boschi, il disboscamento, si rivela un fattore determinante, ma ancora comunque poco studiato in termini storici. Dunque, nell'ambito della storia regionale, manca tuttora una storia del bosco vera e propria. Sembra che la presenza quasi naturale dei sistemi boschivi nella nostra terra abbia comportato una disattenzione cronica verso un fattore primario della salute e del benessere della nostra terra. Il bel lavoro di Katia Occhi è un primo importante approccio che colma una lacuna sempre più sensibile. In questo senso, la sua ricerca non riguarda un aspetto marginale della storia regionale, ma inserisce la storia di questa terra, della Contea del Tirolo, in un'ottica nuova, descrivendo con precisione e puntualità gli intrecci che intercorsero tra il territorio in montanis a quello della Serenissima della Repubblica di Venezia. La riflessione di Katia Occhi ci dimostra in modo efficace che il bosco era una specie di collante forte che legava come pochi altri l'economia e le società alpine, come ha spiegato Andrea, alla civiltà del mare anche. Anche la scelta dell'arco temporale su cui l'opera si concentra sembra particolarmente felice. Al centro dell'attenzione dell'autrice sta il primo periodo moderno, soprattutto tra il 1550 e il 1600, ben noto come fase di crescita economica, di espansione del commercio, ma anche di notevoli sbalzi della congiuntura, come abbiamo sentito prima, soprattutto poi nella fase della peste. Studiare i centri di produzione, la lavorazione e i traffici di legname del periodo significa pertanto osservare anche la profonda trasformazione in atto che da un'economia di sussistenza porta a una più forte integrazione dei sistemi economici. E con felice intuizione l'analisi di Katia Occhi si concentra su una, diciamo, microregione che funge da cerniera tra il Tirolo tedescofono e quello in lingua italiana, i Welschen Confinen, tra l'asta fluviale del Cismon Brenta, la ristretta zona tra Val Sugana e valli del Cismon che verge proprio verso le città di Bassano e Feltre, il complesso sistema di vallate che è connesso con la pianura della terraferma veneta. Nel libro si rivela come un microcosmo affascinante che l'autrice presenta con una angolatura, io direi a volte quasi antropologica, con una meticolosità inserita in una capacità di sintesi sicuramente non comune. Dunque, questo lavoro si basa, come ha detto bene Andrea Bonolli, su una serie di archivi, una direi anche sterminata serie di archivi, e come archivista ai miei tempi all'archivio provinciale ricordo bene la presenza di Katia, che per ben 3 anni frequentò soltanto il nostro archivio, per non parlare degli altri archivi che ha visitato. E appunto in questo libro Katia Occhi ci apre lo scenario affascinante della vita economica lungo il canale di Brenta e del Cismon, su questi fiumi arrivano zattere di legname abbattuto in montagna, abeti rossi e larici robusti, bore di faggio, un fiume di legno praticamente che viene lavorato nelle ben 50 segherie poste tra Fonzaso, si dice Fonzaso, e Bassano, gestite da imprenditori di estrazione locale, ma sempre di più anche di provenienza veneta. E Katia Occhi rivolge la propria attenzione proprio su questi soggetti, in primis sulle maestranze impegnate nel lavoro non facile, spesso pericoloso, nei boschi di montagna, e addirittura il libro riprende qualche episodio dove proprio uno dei boschieri è colpito dall'albero mortalmente, e poi la fonte riproduce questa morte anche crudele. Appunto, il libro si domanda anche come vengono reclutati, da dove provengono gli operai forestali, i boschieri come sono chiamati nella terminologia dell'epoca. Spesso si tratta di manodopera specializzata che si trasferisce in loco anche da zona di residenza lontana. Molte volte invece provengono direttamente anche dalla zona interessata. E i boschieri appunto sono chiamati a svolgere un lavoro pesante, spesso anche rischioso. E innanzitutto sono descritte molto bene le tecniche di trasporto con le quali il legno dalle zone montuose giunge alla sua destinazione. Il taglio avviene spesso in inverno, quando la neve permette un trasferimento del legno più facile sulle slitte o sulle rise, che sono dei canali in inverno gelati, attraverso una specie di bob, attraverso i quali la materia prima raggiunge rapidamente il fondovalle. Restava comunque sostanziale il trasporto fluviale, per il quale bisognava attendere la stagione quando c'era più acqua, che consentiva l'intervento dei zattieri e l'impiego delle stue, che sono sbarramenti artificiali che formavano dei laghi e bloccarono temporaneamente la fluidazione prima di essere aperti. Boschieri, dunque, zattieri, stuari, si rivelano professioni importanti nell'ambito dell'agricoltura di montagna, formando, diciamo, una classe mobile, testimoni ormai scomparsi del dinamismo che distinse il sistema produttivo delle Alpi. Nella seconda parte del libro, Catiaocchi cambia prospettiva, studiando con attenzione il gruppo dei mercanti di legname, e sicuramente una formazione sociale affascinante che solo in pochi casi, purtroppo dobbiamo dire, ha lasciato degli archivi completi in grado di far luce sulle loro attività molteplici. Un gruppo dunque che si muove con un dinamismo notevole, dotato di capabilità e flessibilità che consentono ai singoli mercanti di entrare in contatto con le società locali e di muoversi anche con disinvoltura nell'ambito della corte di Innsbruck e nei palazzi del patriziato veneziano. E Catiaocchi ci fa vedere chiaramente che il requisito indispensabile per iniziare un'attività di mercante coronata di successo era il possesso di un duplice capitale, un capitale reale ed uno simbolico. Chi intendeva inserirsi nel sensibile settore commerciale del legno dovette essere pronto di impegnare per lungo tempo dei capitali consistenti, doveva versare delle somme per le concessioni alla Camera del Sovrano, pagare gli affitti alle comunità locali e finanziare oculatamente la complessa attività dal taglio allo smercio fino alla vendita del legno. Il capitale anticipato spesso rientrò soltanto dopo diversi anni, e per attingere ai consistenti margini di profitto che il commercio del legno poteva offrire, bisognava ricorrere a dei finanziamenti spesso anche azzardati, o ricorrere, diciamo, alla piazza finanziaria di Venezia. D'importanza non secondaria era il capitale simbolico che sosteneva le attività dei commercianti, un'ampia rete di conoscenze che garantiva la fiducia delle comunità locali, una serie di contatti costantemente rinfrescati e coltivati per poter ricorrere alla mano d'opera richiesta, per instaurare un rapporto di fiducia con la corte di Innsbruck, oppure con gli amministratori locali, o per attingere a dei finanziamenti di lunga durata. In questo disegno di accumulazione di capitale simbolico rientrano perfettamente anche le strategie di matrimonio che distinguono i mercanti. Oltre il notabilato locale, parecchi rappresentanti riuscirono ad entrare nel patriziato veneziano oppure nei ceti nobiliari del Tirolo, come abbiamo sentito prima. E nel processo di rinnovamento della nobiltà locale, in atto fin dal 1650, con l'affermazione rilevante di un nuovo ceto dirigente, i mercanti svolsero una parte cospicua. Ne è testimone, per esempio, soprattutto la figura poliedrica di Orazio Carrara, la cui abilità viene esposta nel libro in luce impressionanti. In termini ancora più efficaci ritroviamo il ritratto della famiglia Someda, originari dell'omonima frazione situata presso Moena fin dal 1150, poi perfettamente inserita nel contesto locale di Primiero, e nel contempo proprietari di un palazzo di Venezia nella contrada di Santa Giustina, nella calle detta del Someda. Dall'ampia presentazione dell'operato di queste figure appare con chiarezza, nelle parole di Katia Occhi, come, appunto riprendo anche un po' il pensiero di Andrea Bonoldi, come l'economia dei villaggi alpini non era ripiegata sui propri territori e chiusa in se stessa, ma al contrario inserita nello spazio dei mercati europei per mezzo di membri delle famiglie e dei loro soci dislocati sulle principali vie di commercio. La nobilitazione con il titolo Von und zu Claromonte, conferito nel 1601 dall'imperatore Rodolfo II, segna l'apice della carriera della famiglia Someda, le cui sorti dopo poco si incrinarono per finire appena 20 anni più tardi in un tracollo economico di dimensioni drammatiche. Dunque un bilancio del libro pertanto non può che essere, io direi, lusinghiero. L'autrice ci illustra con lucidità esemplare le complesse relazioni che intercorrono tra il mondo alpino e la civiltà urbana, tra un'economia di sussistenza e quella di mercato, tra il mondo parrocchialistico, piccolo, microscopico dei villaggi e una civilizzazione, civiltà che sta per esplorare il mondo e non per ultimo esplora, diciamo, le mentalità ancora legate a una società cettuale e il libero agire individualistico. Boschi e Mercanti pertanto ci rende un'interpretazione profonda come siano sottili e numerosi i confini e le aperture che percorrono il mondo alpino, non soltanto nel mondo nel periodo premoderno, ma anche nella nostra epoca. Grazie. Adesso